2024 di Enrico Pagliarini. Benvenuti o bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, siamo in onda tutte le settimane, il venerdì tra le 22 e le 23, domenica con una breve replica fra le 13 e le 14. Mi trovate su Facebook, Twitter oppure scrivendo a 2024@radio24.it. Come sempre vi ricordo che tutte le nostre interviste le trovate in versione integrale nell'edizione podcast del nostro programma che abbiamo ribattezzato Super Podcast, proprio per quel motivo, perché ci sono tutte le nostre interviste in versione integrale. Dunque, iniziamo questa settimana, questa puntata, con una notizia che riguarda la radio. È una buona notizia, non vorrei dire una notizia storica, ma una notizia molto importante per il mondo della radio. Perché? Perché la RAS, che è la radiotelevisione pubblica della provincia di Bolzano, ha spento i primi 19 impianti FM che trasmettevano da 6 postazioni. Una decisione molto importante, resa possibile grazie ad una capillare copertura dei segnali della radio digitale DAB su tutto il territorio dell'Alto Adige. Devo dire che da qualche anno l'Alto Adige rappresenta la regione con la massima copertura, direi tutto il territorio è coperto perfettamente dai segnali della radio digitale DAB, anche grazie al contributo di vari soggetti, non solo quelli pubblici, ma anche ad esempio Radio 24 e le altre radio che fanno parte del nostro consorzio, ovvero DAB Italia, hanno contribuito a creare questa rete, questa copertura in Alto Adige. Poi la rete si è espansa in tutta Italia e, come dicevamo un paio di settimane fa, copriamo oggi l'80% della popolazione con una rete che si sta estendendo sempre di più, anche se la strada è ancora lunga. Però la notizia, questa notizia è importante perché una grande copertura dei segnali digitali permette gradualmente di spegnere l'FM. Allora, attenzione, perché se ci spostiamo in ambito nazionale, lo spegnimento dei segnali FM non è previsto per legge, non è nemmeno in programma, non è nemmeno all'orizzonte, ma ovviamente l'obbligo di vendere dal 2020 solo ricevitori che permettano di ricevere, oltre che l'FM, che rimarrà una piattaforma su cui continueremo a trasmettere ancora per anni, ci sarà l'obbligo di avere anche i ricevitori della radio digitale anche in automobile, cosa di cui abbiamo parlato appunto un paio di settimane fa. Beh, tutto ciò potrebbe spingere nel giro di qualche anno verso il cosiddetto switch off anche nell'analogico della radio. Vedremo che cosa si deciderà anche a livello europeo, ci sono discussioni informali a vario livello ovviamente. Tra l'altro questo contribuirebbe anche ad un risparmio energetico, di costi, di emissione elettromagnetica, insomma ci sarebbero tanti benefici al passaggio al digitale. Ovviamente parallelamente a tutto ciò, parallelamente alla trasformazione in digitale della radio, c'è un altro fenomeno che riguarda la radio, ma più in generale tutti i produttori di contenuti, e chi fa la radio è un produttore di contenuti, che è un altro tipo di digitalizzazione, una digitalizzazione resa possibile dal web, dalle applicazioni, perché molti contenuti nei prossimi anni transiteranno, lo fanno già oggi attraverso i podcast ad esempio, ma transiteranno attraverso lo streaming, attraverso il podcast, attraverso le applicazioni, tutti questi servizi si amplieranno e anche in questo mercato entreranno altri soggetti. Quindi il mercato anche della radiofonia nel giro dei prossimi anni si trasformerà, forse più lentamente rispetto al mondo della TV, perché l'ascolto in automobile, dove non puoi distrarti e quindi la radio è perfetta, ovviamente fa sì che questo mondo continui ad essere uguale a quello di oggi ancora per molti anni. Poi quando ci saranno veicoli particolarmente dotati di sistemi di assistenza alla guida e quindi che ci permetteranno di distrarci un po' di più, magari potremmo utilizzare molti più contenuti rispetto a quelli che utilizziamo oggi. Questa è una prospettiva molto interessante, questo è un mercato che già oggi si sta trasformando, e forse la trasformazione che abbiamo visto più lampante è la rinascita da un certo punto di vista della radio negli ultimi anni, che ha riguadagnato uno spazio che forse un po' di tempo fa non era sufficientemente ampio, e quindi siamo contenti di questa evoluzione della radio. Dunque, adesso cambiamo argomento, parliamo di cose che succedono in Europa. ce n'è una molto curiosa che vi dirò tra poco. Allora, come sapete, molte leggi che regolano la nostra vita vengono discusse a Bruxelles. All'inizio del 2018 la Commissione Giuridica del Parlamento Europeo voterà un pacchetto che dovrebbe riformare le leggi sul diritto d'autore, ma secondo molte organizzazioni addirittura la rete internet potrebbe essere a rischio, perché la bozza che si sta discutendo potrebbe essere addirittura devastante, perché quasi tutto ciò che gli utenti postano su internet, fanno su internet banalmente fotografie delle vacanze, potrebbero tutti questi contenuti essere sottoposti a filtraggio o essere addirittura bloccati. E c'è chi dice che addirittura questa proposta metta a rischio anche la pratica dell'hyperlink, cioè quando io metto un link su internet e quindi collego la mia pagina, il contenuto che ho fatto, con un altro sito, in alcune situazioni potresti essere soggetto a dover pagare un diritto d'autore. Vedremo quale sarà l'evoluzione, però ci sono varie campagne che sono state organizzate. Tra le tante c'è quella di Mozilla. Mozilla è il produttore, una fondazione no profit che produce il browser molto famoso, tra l'altro rinnovato da poco, molto bello, molto leggero, consigliatissimo. Ha creato un sito internet che si chiama changecopyright.org e la novità è che questa fondazione mette i cittadini che vogliono partecipare a questa campagna, tra l'altro vi invito a studiare questo argomento perché è sicuramente molto molto importante. Allora, che cosa fa questa fondazione? Invita i cittadini e li mette in contatto con un parlamentare europeo. Ma veramente in contatto, cioè come fa? Allora, basta inserire il proprio numero di telefono sull'applicazione o su internet, la fondazione Mozilla richiamerà e si avrà proprio l'occasione di parlare con un parlamentare europeo. Per facilitare il tutto la fondazione ha messo anche a disposizione un copione, cioè quindi tu potresti anche seguire le indicazioni e dire: guardi caro parlamentare, io non sono d'accordo con la nuova legislazione sul diritto d'autore, con tutta una serie di motivazioni. Però se poi uno si studia a questa materia e naturalmente condivide l'idea di queste campagne, può dire quello che vuole. Però la cosa interessante è l'evoluzione di campagne di questo genere, fino al punto di mettere in contatto chi partecipa con una persona vera e propria, con un numero di telefono. Insomma, mi sembra una prospettiva sicuramente curiosa e da citare. L'altro grande tema riguarda non solo il copyright, ma la neutralità della rete. Noi siamo abituati a fare quello che facciamo su internet proprio grazie al fatto che la rete è neutrale. Il 14 dicembre è prevista una seduta della Commissione federale per le comunicazioni americana in cui si parlerà di una riforma e alcuni sono molto preoccupati di questa riforma. Vedremo quale piega prenderà questa riforma della neutralità della rete negli Stati Uniti. Ma io mi sono messo avanti, ho chiesto a Innocenzo Genna, che è esperto di regolamentazione europea nell'ambito delle telecomunicazioni, se potrebbero esserci ripercussioni in Europa. Poi parleremo anche di alcune cose, di alcuni confini che ancora esistono nell'Europa digitale e di alcuni confini che invece sono caduti o cadranno molto presto nell'Europa digitale. Qualsiasi cosa verrà decisa in America sulla neutralità della rete non avrà un impatto in Europa, perché in Europa abbiamo una normativa relativamente recente del 2015 che è stata dibattuta a lungo e alla fine condivisa. Attualmente è in fase di implementazione perché vi sono le prime decisioni da parte delle autorità nazionali e quindi non vi sarebbe motivo di cambiarla. Quindi potremmo dire che da questo punto di vista l'Unione Europea e essere all'interno dell'Europa per i cittadini europei è un vantaggio. Sicuramente. D'altra parte questa riforma europea delle neutrali verrebbe un po', come dire, brandizzata con l'amministrazione Trump, che probabilmente in questo momento non è il miglior sponsor per introdurre qualcosa di nuovo in Europa. Certo. Quali sono gli altri dossier di attualità di cui si sta discutendo che riguardano la nostra vita digitale? Attualmente le istituzioni europee sono impegnate con la riforma del codice delle comunicazioni elettroniche, con la nuova normativa della privacy nelle comunicazioni elettroniche, mentre un dossier ormai arrivato a destinazione è quello sul geoblocking. Poi spieghiamo anche che cos'è il geoblocking. Sì, è stato trovato un accordo tra le istituzioni nei giorni scorsi e quindi questa novità normativa troverà applicazione l'anno prossimo, perché il regolamento verrà pubblicato tra pochi giorni, ma poi vi sarà bisogno di 9 mesi per dare tempo alle imprese per adeguarsi. Quindi per questi acquisti, diciamo, più liberi bisognerà aspettare Natale prossimo, non il Natale attuale. Ecco, allora definiamo geoblocking, un blocco basato sulla geografia, quindi tipicamente i confini nazionali, anche se siamo in Europa, ci sono ancora confini nazionali forti in alcuni settori. Che cosa significa questo oggi e che cosa significherà poi quando questo regolamento sarà operativo? Attualmente le imprese sono libere di geobloccare i propri utenti, cioè possono imporre ai propri utenti di non acquistare servizi o beni da altri paesi europei quando sono su internet, quindi possono di fatto renderizzarli su un sito locale. Quindi se io vado, tento magari di andare su un sito di un venditore online francese, quel venditore potrebbe decidere che che il mio computer si deve reindirizzare sul sito italiano. Sì, o comunque può imporre una serie di condizioni discriminatorie nei confronti di un utente che viene da un altro paese. Certo, questo vale sia per i beni fisici e anche per i beni digitali, sì, film, musica, eccetera. Sì, sì, diciamo, questo, attualmente questo è lo stato delle cose. All'inizio della legislatura europea vi erano state dichiarazioni di porre fine al geoblocking. Con l'attuale accordo alcune pratiche verranno effettivamente limitate, altre meno. L'accordo per limitare il geoblocking si è avuto soprattutto su 3 fattispecie. Il caso in cui vi è un bene da acquistare ma che non deve essere necessariamente consegnato a casa del cliente. Quindi io per esempio posso comprare un bene su un sito francese, ma non posso obbligare il sito francese a consegnarmi in Italia il bene. E quindi? Devo andare in Francia? Allora, quindi può darsi che in alcuni casi possa andare in Francia, in alcuni casi si svilupperanno dei servizi logistica su iniziativa dei clienti, che quindi si accorderanno con il sito francese e porteranno ovunque il bene. Fino adesso questi servizi di logistica sono invece predisposti dal venditore. Certo, adesso non so quale possa essere l'orizzonte, ma mi sa che sia immagino che sia una cosa un po' marginale. Devo proprio volerlo veramente molto quel bene per fare tutta una trafila del genere. Sì, è vero, però penso che si potrebbe creare un mercato, perché vi potrebbero essere servizi di logistica interessati a sviluppare questo tipo di servizio. Nel momento in cui diventeranno cose usuali, alla fine anche i venditori si renderanno conto che devono vendere ovunque in Europa. Ok, questa è la prima fattispecie. Le altre? Le altre sono nel settore dei servizi. Il caso del servizio di comunicazione elettronica, ad esempio io voglio utilizzare una casella di posta o un servizio di hosting o creare un sito web, lo posso fare con qualsiasi provider ovunque sia stabilito in Europa, e quel provider non mi potrà reindirizzare alla sua filiale italiana. L'altro caso è quello dei servizi che vengono acquistati nel mio paese ma forniti all'estero, servizi fisici, ad esempio servizi di turismo. Se io voglio andare a Disneyland, posso andare nel sito di Disneyland Francia e acquistare lì direttamente il servizio alle stesse condizioni di un utente francese. Non verrò reindirizzato sul sito della Disneyland italiana per comprare il servizio in Francia. Questo è un caso, ma vi sono tanti altri. Tra l'altro non so neanche se Disneyland faccia questo. Sì, non penso. Era un esempio assolutamente. Senti, se io voglio vedere un film da un operatore francese? Ecco, no, qui invece entriamo nell'ambito un po' più doloroso, in cui non si è trovato un accordo. Per tutto ciò che riguarda i contenuti digitali, quindi soprattutto musica e film, il geoblocking rimarrà, perché le resistenze dell'industria, supportate da molti stati membri, hanno impedito che si trovasse un accordo sulla fine del geoblocking in questo settore. Quindi, ad esempio, persino in caso di operatori transnazionali come Netflix o come altri, loro potranno sempre imporre geoblocking, far sì che io italiano venga reindirizzato sulla Netflix italiana anche quando avrei interesse a collegarmi a una Netflix olandese, perché lì magari c'è un contenuto non disponibile in Italia, perché il prezzo è differente o perché voglio sentire qualcosa in olandese. Certo, tranne un caso in cui io sia nomade o comunque sia turista o viaggi per lavoro. Ecco, in questo caso spieghiamo che cosa succede. Già da un po' di tempo questo è possibile. Sì, questa fattispecie è coperta da un altro regolamento, quella della portabilità dei contenuti. Se io acquisto un contenuto su un bene portabile, quindi un tablet, un telefonino, e mi muovo all'estero, ho il diritto di continuare ad usufruire di questo contenuto abbonamento anche quando sono oltre frontiera. Ovviamente gli operatori potrebbero controllare se io mi trovo semplicemente di passaggio all'estero o se invece abito all'estero, allora potrebbero contestarmi questa circostanza. Però in generale questa norma già esiste, quindi io in principio posso portarmi ovunque in Europa il mio tablet e continuare a usarlo come se fosse in Italia. Avete sentito che purtroppo c'è sempre un certo ginepraio tra le regole europee, però qualche confine gradualmente anche nel mondo digitale, che dovrebbe invece di confini non averne, sta accadendo. Pian pianino riusciamo a creare un'Europa digitale unica, come l'Unione Europea vorrebbe fare, un mercato digitale unico, single digital market. Adesso parliamo di turismo, è una industria fondamentale per l'Italia, lo sappiamo benissimo, dovremmo impegnarci di più per trattare meglio le persone che sono qui, per cercare di attirarle e ovviamente l'innovazione tecnologica gioca un ruolo fondamentale. Mirko Lalli, fondatore e amministratore delegato di Travel Appeal, bentornato a 2024, grande esperto di turismo, bentornato. Grazie Enrico. Ovviamente ci sono tante declinazioni e tanti trend tecnologici quando parliamo di turismo. Oggi ne racconteremo alcuni, però vorrei partire dall'ABC, perché forse molti anche nel nostro paese sull'ABC sono un po' claudicanti. Cioè essere presenti su internet, avere una piccola strategia internet, quindi banalmente avere un sito internet aggiornato, un sito internet che se lo guardo dal telefonino non ha i caratteri minuscoli, farsi trovare sui motori di ricerca, utilizzare anche un pochettino i social network presidiandoli, perché se poi uno li abbandona lì non serve a niente. Se ti chiedessi un parere generale su come siamo messi a livello di, capisco che generalizzare è sempre complicato, a livello di industria turistica e anche di promozione turistica in generale, sfruttando le tecnologie, come siamo messi? Allora, noi ogni anno in Travel Appeal facciamo una grande indagine che presentiamo ad ottobre proprio sullo stato dell'ecosistema turistico digitale, partendo dagli operatori. Quindi non le istituzioni, ma i singoli operatori, singoli hotel, singoli ristoranti e tutte quelle aziende che in qualche modo hanno a che fare col turismo. E dal punto di vista della reputazione siamo messi molto bene. Ci sono ovviamente dei gradienti da nord a sud, cambiano da determinate destinazioni piuttosto che altre, ma la soddisfazione generale dei viaggiatori, soprattutto dei viaggiatori internazionali, è molto alta. Cioè sempre superiore all'80%, tranne in rarissime eccezioni. Ad esempio, le rare eccezioni sono quelle destinazioni in cosiddetto overtourism, cioè dove c'è troppo casino, c'è troppa confusione. Questo, hai citato un termine molto bello che io ho scoperto da poco, l'overturismo, cioè quelle destinazioni che non sanno gestire gli arrivi turistici e... Che capisco sia molto complicato. Esatto. No, certo, non è che è facile, però ci si può provare, certo. E quindi si crea questa, cioè vai in una località turistica dove c'è troppa gente, troppo traffico, gli alberghi tutti pieni, un sacco, che costa tutto un sacco di soldi. Questo l'ho imparato quest'anno. Su questo magari ci porterebbe lontano, però un consiglio, se qualcuno è interessato, è di andare a vedere cosa sta facendo Amsterdam, che di punto in bianco qualche settimana fa ha lanciato un piano sull'overtourism per ridurre la congestione del centro storico e migliorare la vita sia dei turisti che vogliono visitare Amsterdam sia dei cittadini residenti che ovviamente quando c'è troppa confusione hanno dei problemi. Sì, sì, sì. Beh, quindi sulla reputazione siamo qua, ma se tu dovessi dare un parere su siamo bravi a utilizzare le tecnologie. Purtroppo non siamo molto bravi a utilizzare le tecnologie. L'adozione della tecnologia nel nostro ecosistema turistico è molto bassa, molto anche artigianale. Questo non è necessariamente un punto di debolezza, è molto artigianale, però porta a dei punti di debolezza successivi. Ne prendo uno, ma ci sono tanti studi che dicono quali sono le priorità dei turisti nella scelta delle destinazioni e anche delle singole strutture. Concordano tutti su una serie di punti. Intanto il punto più importante macro è che il turismo ormai è digitale, quindi le decisioni di acquisto ormai si prendono online. Non importa dove acquisto fisicamente, magari vado anche in agenzia o mi rivolgo ad un intermediario, ma sempre più spesso mi informo online. Esatto. Cioè ho già deciso, sì, e magari vado già dicendo vorrei andare qua, oppure tra questo e questo tu cosa mi consigli? Spesso non lo sanno, e quindi sì, questo sì, è il sì, motivo perché per le agenzie effettivamente resistono in questo stanno mare, anche crescendo. Ecco, sì, sì, questo è un dato interessante. In controtendenza, stanno crescendo perché hanno iniziato a specializzarsi e a dare quel supporto che effettivamente cercare online non è una cosa semplice. Sì, una ricerca perdiamo un sacco di tempo. Ricerca di Expedia, anche quello loro fanno tutti gli anni, dice che il viaggiatore medio, è una media globale ovviamente, nelle 5 settimane prima di prenotare un hotel, un singolo hotel, consulta 145 siti online. Pazzesco. Magari non ce ne accorgiamo, esatto. Invece sì. Vai su Booking, poi su Expedia, poi su Trivago, poi vai su Google, guardi il sito dell'hotel, poi torni a vedere su Kayak i prezzi e così via. È un gioco di rimbalzi, poi guardi le recensioni su TripAdvisor e così, che ti porta a vedere tantissime fonti per prendere un'unica decisione. Ed è per questo che esistono ancora le agenzie, perché ti consigliano e se sono brave tu rimani soddisfatto. Tornando a quello che stavi dicendo, quali sono le priorità di scelta? Sì, sì. Ovviamente la prima priorità di scelta, cioè il fattore che influenza maggiormente le scelte dei viaggiatori, sono le recensioni su tutti i canali. Non è soltanto TripAdvisor, che anzi nell'economia generale del sistema di reputazione sta un po' calando, sia dal punto di vista psicologico sia proprio dal peso numerico delle recensioni disponibili. TripAdvisor, Booking, Expedia, ma soprattutto le recensioni che stanno raccogliendo sempre con maggior forza Facebook e Google. Chiunque ha un dispositivo Android sa che quando visita un posto o passa in un posto, dopo pochi secondi arriva la notifica dicendo sei lì, mi racconti come ti sei trovato, sì. E Google sta diventando dominante anche in questo settore. A meno che uno non abbia disattivato la geolocalizzazione, ma lo fanno in pochi. Per pochissimi. Però si può fare. È interessante, ci sono altre certo, priorità, le recensioni no? È ovviamente il primo fattore. Il secondo fattore da sempre storicamente è il passaparola. Non mi interessa se online o offline, ma il passaparola referenziato di parenti e amici. Ovviamente oggi avviene quasi tutto online. L'altro fattore immediatamente successivo è la ricercabilità attraverso i motori di ricerca, importantissimo. Il punto d'ingresso molto spesso è Google o un altro motore di ricerca, ma in Europa diciamo è Google, seguito immediatamente dopo da il ranking. Quindi il ranking è importante, il numero di stelle, il numero di palle, il punteggio che si trova accanto al nome dell'hotel, non le stelle, quello è completamente ininfluente. Cioè le stelle intendi... Le stelle, quelle... diciamo, 3 stelle, 2 stelle, sì, sì. Stella. Invece quelle che dicevi prima erano le stelle della reputazione che hai online. Su TripAdvisor ci sono le palle, su Booking ci sono le stelle, Okay. E il ranking. Sì, sì, e poi c'è un dato interessante che quasi il 10% dei viaggiatori decide se andare in un hotel... oppure non andarci in base alla qualità del sito internet e dei contenuti del sito certo. Internet. Cioè se hai un brutto sito internet non è che fai una bella impressione, magari hai delle stanze bellissime, sei cordialissimo, hai una colazione fantastica, ma se hai un sito internet che fa schifo è un po' come avere una vetrina di un negozio che è brutta. Questo è un elemento dirimente, assolutamente importante, perché l'esperienza di viaggio inizia quando tu inizi a fare shopping online, quando tu inizi ad andare online e a cercare informazioni. Anche quella fase deve essere assolutamente soddisfacente. Per questo è importante un ecosistema digitale ben costruito, bello, funzionale, che ti permetta non solo di trovare tutte le informazioni sui prezzi, disponibilità, questo è facile, ma anche di ispirarti e di farti prendere la decisione. Certo, certo. Poi parleremo di alcuni trend e daremo anche qualche consiglio di servizi, startup molto sexy che stanno nascendo, perché effettivamente nel turismo c'è molto movimento. Voi con Travel Appeal che cosa fate e che cosa state facendo? Perché c'è una novità che vorremmo raccontare. Allora, noi abbiamo poco più di 3 anni. E storicamente abbiamo sempre fatto una cosa molto complicata, se apparentemente, ma in realtà è stato l'uovo di Colombo, perché tantissimi ne hanno bisogno, cioè raccogliere i dati di percezione online, di comunicazione online dell'ecosistema turistico, non solo italiano. Abbiamo già coperto con i nostri dati tutta Europa e a macchia di leopardo anche altre zone del mondo dove abbiamo iniziato a lavorare. Questi dati vengono elaborati con una serie di algoritmi proprietari, è un pezzo di intelligenza artificiale che stiamo incrementando e costruendo, e restituiscono delle informazioni agli operatori per prendere decisioni migliori. Questa cosa, che sembra complicatissima, in realtà dal punto di vista dell'utilizzatore si traduce in un'interfaccia che gli fa capire come è percepito, cosa pensano di lui i francesi, i tedeschi, gli spagnoli, che cosa piace a ciascuno piuttosto che a un altro, se si lamentano della piscina o della cucina, se c'è un problema sul personale o sulla reception. Importante, importante. Certo. Il prossimo passo, che è già in beta, cioè già diciamo in test con una serie di clienti, e che lanceremo nei primi mesi dell'anno pro del 2018, è quello che internamente chiamiamo un coach. Tu immaginati Rankeeper. Un allenatore? Proprio, abbiamo preso a modello Rankeeper, cioè la famosa app per chi va a correre, che ti dice sono 3 giorni che non corri, oppure viceversa, bravo, hai fatto la tua miglior performance, ma te lo dice in italiano o in inglese. E ci siamo accorti che l'ecosistema imprenditoriale legato al turismo, non solo in Italia, un po' in tutta Europa, è fatto da piccoli imprenditori che non hanno spesso le competenze, ma neanche i soldi, e neanche il tempo per gestire uno strumento online pur semplice. Certo, perché io prima ho detto bisogna avere il sito, bisogna farlo in un certo modo, bisogna curarlo, bisogna andare sui social network, bisogna essere trovabili sui motori di ricerca. E spesso c'è una sola persona nelle nostre strutture. Quindi un'app, perché il cellulare ce l'hanno sicuramente sempre con loro, che gli suggerisce cosa fare, azzera la complessità attraverso un'intelligenza artificiale, analizza e impara continuamente dal suo comportamento, dal comportamento dei suoi competitor diretti e dall'intera destinazione dove si trova a lavorare, la città o dipende, il Chianti, dipende dalla destinazione, certo. E propone consigli concreti. Ti sei accorto che? Guarda che c'è un evento, ti puoi permettere di alzare i prezzi, oppure il tuo competitor ha finito le camere, guarda che cosa sta succedendo, i tuoi ospiti si stanno lamentando di... in italiano, in modo da poter essere veloci, perderci pochissimo tempo e prendere però decisioni migliori per il proprio business. Questo per tipicamente hotel, Hotel, ristoranti, tutto il mondo dell'extra alberghiero, che sta crescendo a doppia cifra. In Italia abbiamo 35.000 hotel più o meno e 250.000 listing di strutture extra alberghiere tra appartamenti, vacation rental, Airbnb. Ah certo, qui dove la professionalità è ancora meno. Quindi se tu gli dai uno strumento che dice guarda che fra 2 mesi c'è una fiera importante e io faccio altro, mica lo so, potresti aumentare i prezzi. Certo, penso sempre che anche se i tassisti avessero un'applicazione che gli dice guardate che domani c'è un evento in quella zona lì, andate perché probabilmente ci sono dei clienti, no? Sì. Non so se il tuo può farlo. Non lo so, i tassisti è un target che non abbiamo preso in considerazione. No, interessante. Senti, hai citato l'intelligenza artificiale, che è sempre una cosa che può sembrare complicatissima. Che cosa sta succedendo nel mondo del turismo con l'uso dell'intelligenza artificiale che si combina con gli assistenti virtuali, gli assistenti vocali? Allora, l'intelligenza artificiale è un termine usato e abusato non soltanto nel mondo del turismo, è una delle tendenze da un paio d'anni che stanno, così vengono nominate, anche un po' a sproposito. Sì, per fare molto marketing. Esatto, tutti utilizzano l'intelligenza artificiale. Mi ricordo uno di Google all'ultimo South by Southwest che disse: la formula per le prossime 10.000 startup sarà prendi qualcosa, aggiungi intelligenza artificiale, fatto. Sì. Poi ci metterei anche un po' di blockchain. Ci arriviamo. Però, vabbè. Ci arriviamo tra un attimo. Quello che è vero è che i grandissimi stanno davvero giocando una partita importante sull'intelligenza artificiale, e nel mondo del turismo i grandi sono sostanzialmente il duopolio Priceline, Booking.com ed Expedia dall'altro lato. Priceline è molto più grande di Expedia, ma se la giocano come quota di mercato, e poi a seguire tutti gli altri, Trivago e così via. Tutti in qualche modo stanno lavorando o iniziando a lavorare sull'intelligenza artificiale per un semplice motivo: se io riesco ad imparare dai comportamenti dei miei utenti, riesco a trarre lo stesso cosa che facciamo noi con gli operatori, a trarre delle conclusioni, riesco anche a migliorare la loro esperienza. E siccome l'esperienza online è importante tanto quanto l'esperienza di viaggio, se io ti facilito il processo e te lo rendo più soddisfacente, più bello, più semplice, beh, ho vinto la battaglia. E questo cosa vuol dire? Vuol dire, in maniera molto semplice, darti con maggior priorità dei consigli che sono pensati per te, rilevanti per te. Questa cosa spesso non viene associata all'intelligenza artificiale, ma in realtà è un piccolo trucco di deep learning. Amazon lo fa da sempre, in maniera anche piuttosto di buona qualità, sì. Sono bravissimi, e iniziano a farlo anche tutti gli operatori del mondo del travel, fino alle due grandi applicazioni, chatbot, assistenti e assistenti vocali. Che il motore sotto più o meno è lo stesso, cambia l'interfaccia, che nel chatbot è un sistema di messaggistica, e nei sistemi vocali ovviamente è vocale. Ma hai già visto qualcosa di interessante, allora, che funziona o no? Chatbot ce ne sono tanti, sì. Anche noi ne abbiamo uno che abbiamo sviluppato per dei nostri clienti, funzionano, perché ovviamente c'è un sistema semantico che riconosce, sì. E funzionano bene, dipende dalla qualità del motore che ci sta sotto, e a livello global tutti stanno un po' buttandosi da KLM, anche Booking.com ha un piccolo sistema di chatbot, diciamo quello più ce ne sono due che sono i più interessanti in questo momento. Il primo, che consiglio a tutti, disponibile anche in Italia, si chiama Lola. Lola, sì. Molto semplice. Per trovarlo basta andare su Google e scrivere Lola Travel, che Lola da solo è un po' complicato. Sì, per... magari si trovano altre cose. Si trovano altre cose. Lola Travel è una app, sì. Che ha la sola interfaccia tramite un sistema di chat. Quindi tu entri, si apre una chat e gli puoi chiedere... Cioè, ciao, voglio andare a Roma. Esatto. Ah. E lui inizia a parlare con te e a proporti delle soluzioni. La cosa interessante è che non è solamente intelligenza artificiale, ci sono delle persone, è stata fatta da uno dei fondatori di Kayak, quindi grande esperienza, sì. Iniziano a crescere, nel futuro credo si specializzeranno nel settore del business travel, a quanto ho visto adesso come gli ultimi movimenti della società. Inizia a parlare con te, a chiederti cose, e ti propone, e tu fai tutto in chat, fino da ricevere i voucher, le carte d'imbarco, quindi ricevi tutto là. E questo semplifica anche il dopo, perché se un aereo è in ritardo, ti viene comunicato là e trovi subito la soluzione con le persone o con l'intelligenza, dipende. Se la cosa è semplice viene gestita dalla AI, se la cosa è più complessa entra un agente di viaggio che parla con te, con nome e cognome, tu vedi esattamente con chi stai parlando. Sì, sì. E questo è molto interessante, ed è interessante perché l'interfaccia... tutti la sanno usare. Sì, sì, è il messaggio, cioè esatto, WhatsApp, no? Esatto. Infatti. Quindi non c'è niente da imparare. Mm-hmm. Un'altra cosa molto interessante è Mezi, che funziona, è scritto come l'ho pronunciato, M-E-Z-I, funziona anche questo solo come una chat, è un po' più estensivo perché è solo intelligenza artificiale in questo caso, perché loro curano tutte le fasi del viaggio, dalla prenotazione fino a essere una sorta di concierge virtuale quando tu sei a destinazione. Dove vado a cena adesso, quali sono i negozi aperti, lo shopping, voglio acquistare questo, eccetera. Il miglior ristorante vegano, non lo so, qualsiasi cosa, sì. In chat. E entrambi sono già sul mercato, tutte e due disponibili anche in Italia e si possono provare. Interessante. Un concetto leggermente differente, trip.com. completamente basato sull'intelligenza artificiale, viene dall'esperienza di Gogobot, che ha fatto un rebranding e ha lanciato questa nuova app. Anche questa, il motore, l'interfaccia è più classica, ti accompagna durante il viaggio e ti suggerisce, in base ai tuoi gusti, il miglior bar per te dove fare colazione, il miglior ristorante, in base al meteo, se ti piacciono fare delle attività e fuori sta piovendo, ti suggerisce le migliori attività indoor. Quindi è completamente personalizzata sui tuoi gusti, che tu scegli all'inizio appena entri, e poi continua ad imparare dalle cose che tu scegli e che non, o che non scegli. Senti, ti faccio una domanda che vale anche per non solo per le queste applicazioni, ma anche per gli esercenti che hanno un bar, un ristorante, un albergo. Con il passaparola, che se io ho un bar e magari ho delle brioche fantastiche, se una persona viene da me e lo dice ai suoi amici, io barista non è che devo far molto. In questi casi invece tutto ciò funziona se io barista mi faccio vedere, cioè se dico a queste piattaforme esisto e ho questo tipo di offerta, o riescono ad andare a scoprire cose anche tutte e due. Tutte e due. È importante esserci in qualche modo, cioè dire almeno che... essere sulle mappe di Google, ecco, diciamo, ad esempio. Sì. Ma lo darei per scontato. Però almeno essere... un sacco di cose per scontate che non lo so. No, però almeno essere sulle mappe di Google, magari facendo il claim della venue, in modo da poterla in qualche modo gestire. Tutti questi sistemi permettono di dire: io sono il proprietario, in vari modi, o con una carta di credito, o con una bolletta telefonica intestata, qualcosa, in modo da poi gestire le informazioni. Però in ogni caso, molto spesso vengono prese automaticamente le informazioni e vengono analizzate le recensioni e i commenti che gli utenti lasciano. Quindi se qualcuno avrà detto le brioche sono fantastiche, anche se il barista non ha detto nulla, la piattaforma ne tiene conto. Ovviamente è un sistema, diciamo, se lo dice solo uno pesa poco. Certo. Ecco. Sì, chiaro. Chiudiamo il capitolo intelligenza artificiale, assistenti virtuali, o vuoi aggiungere qualcosa? Ne vorrei dire solo uno. Sì. La nuova frontiera sarà sicuramente le interfacce vocali. Sì. Come ormai ci stanno abituando tutti i grandi, da Apple a Amazon a Google. Sì, infatti approfitto per dire che ho visto una presentazione recentemente dove una persona diceva: oggi non telefoniamo quasi più, cioè il numero di telefonate si sta fortemente riducendo, ma la interfaccia vocale, ma la continueremo a utilizzare la voce, perché stiamo transitando dalla telefonata al dialogo con delle macchine. Assolutamente vero. Non so se dobbiamo gioire di questo, però vabbè, così. Diciamo che è un modo, è come quando siamo passati dalla scrittura alla tastiera, dalla tastiera alla voce, è un meccanismo di ingresso delle informazioni, veloce, semplice. E adesso i due più interessanti che ho visto sul mercato sono il primo Hello Goodbye, scritto Hello G Bye, come ciao, che è un sistema al quale tu racconti il tuo viaggio a voce: vorrei fare questo, questo, questo, questo e questo, e automaticamente prenota. Quindi vorrei andare a New York domani con questa linea aerea perché ho le miglia, vorrei stare in un hotel 4 stelle vicino a Central Park, tornare indietro in questa data e così via. E lui ti fa un summary e tu con un click prenoti tutto. E capisce bene. Perfettamente. Ah. Fantastico. Ci sono dei video su YouTube, andate a vederlo in azione, anche sul loro sito. Questo non è ancora disponibile in Italia, funziona solo negli Stati Uniti, però è molto promettente. E l'altro, che è assolutamente impressionante, è di una società indiana che si chiama Ixigo. Ixigo è uno dei più grossi tour operator indiani. Il mondo indiano spesso nasconde delle sorprese, perché hanno delle dimensioni di mercato. Sono più di un miliardo anche loro. Quindi a volte escono delle società che non conosciamo, che sono incredibili, grandissime, hanno delle soluzioni eccezionali. Hanno presentato un nuovo assistente vocale che hanno chiamato Tara, che funziona in maniera multicanale, cioè ti può anche chiamare al telefono e proporti, come faceva una volta un assistente di viaggio umano, proporti delle offerte se tu vuoi, ricordarti che devi partire. Tu fai tutto al telefono via voce, ovviamente in modalità intelligente, cioè ti manda un messaggino per farti vedere ad esempio le foto dell'hotel, tu confermi, ti richiama, quindi usa tutti, diremmo, i touch point disponibili, tutti i punti di contatto con l'utente, e tu in maniera semplicissima riesci a scegliere, prenotare ed è interessante perché ovviamente ti propone soltanto le cose che sono compatibili con te, analizzando i tuoi comportamenti e la tua storia di viaggio. Certo, certo. Naturalmente tutte queste cose più le usi più imparano. Assolutamente, cioè, sì. Cioè la prima volta forse non rimani soddisfattissimo, no? Ma magari la prima volta ti chiedono qualche informazione in più. Sì. Sì, sì, certo. Vabbè, chiudiamo il capitolo, beh, bellissimo, tra intelligenza artificiale. Vuoi citare qualcosa sulla blockchain, visto che va molto di moda? Perché anche in questo caso stiamo parlando di applicazioni che effettivamente utilizzano blockchain, altre che non sappiamo bene se lo utilizzano o lo utilizzano solo nei comunicati stampa. Allora, il mondo del turismo in questo momento si sta fortemente interrogando sulla blockchain. La blockchain è una tecnologia che ha delle implicazioni assolutamente distruttive in senso di disruptive, cioè può distruggere intere quote di mercato. Così come il parallelo mi viene in mente pensando alla blockchain è così come con l'arrivo delle OTA, cioè delle online travel agencies, di Booking ed Expedia, è scomparso il mondo dell'intermediazione tradizionale. Con l'arrivo della blockchain potrebbero, se loro non sono veloci ad adottarla in parallelo ai loro sistemi, potrebbero scomparire loro. Sì. Ricordiamo che blockchain è la tecnologia che sta a base dei Bitcoin, ma è anche un principio tecnologico. Si possono creare blockchain di altro tipo e uno dei principi fondamentali è che questo sistema è decentralizzato, estremamente sicuro. E prendendo questi elementi decentralizzato ed estremamente sicuro, che cosa succede? Succede ad esempio che i pagamenti diventano più semplici, senza commissioni o quasi. Succede che la distribuzione dell'offerta, che da sempre si basa su degli hub che contengono le camere, l'offerta disponibile, la distribuiscono ai punti o sul territorio o online, anche oggi funziona così, esattamente così. Questa cosa potrebbe implodere, perché chiunque potrebbe mettere sulla blockchain la propria offerta e raggiungere lo stesso potenziale di visibilità e anche di redditività. Sì, i grandi ci stanno già pensando, ovviamente. C'è una startup che si chiama Winding Tree, Svizzera se non ricordo male, Svizzera sicuramente, la Svizzera sta diventando un po' il cuore della blockchain nel mondo. Sì, sì, visto che non possono più fare business in altro modo, Bitcoin e blockchain è il nuovo business del futuro. Sono i migliori esperti di blockchain, sono svizzeri in questo momento. Winding Tree, che è una società che sta lavorando sulla distribuzione, che ha già raccolto tra i propri soci le più grandi compagnie aeree del mondo e ha fatto anche un ICO, cioè come il parallelo dell'IPO per la borsa, e ha raccolto centinaia di milioni. Pazzesco, È incredibile. Sì. Si stanno succedendo cose fantastiche. Naturalmente questa è una prospettiva di medio-lungo periodo, non è che fra o no? Non lo so. No, non credo. Cioè potremmo immaginarci un futuro che, grazie alla blockchain, farà scomparire i booking.com, expedia.com, o se non scomparire fortemente ridimensionare. Io credo che potremo vederlo questo futuro nel giro di qualche anno, molto velocemente. L'accelerazione in questo settore, tu mi insegni, è assolutamente è vero. Esponenziale. Il turismo da sempre è stato la porta d'ingresso per le tecnologie. Questa è una cosa strana, cioè il settore del turismo è quello che spesso ha testato le tecnologie che poi si sono riversate in altri settori. Sì, infatti se guardiamo i dati dell'e-commerce, già tanti anni fa il turismo cubava tantissimo, cioè una delle prime voci era il turismo, biglietti aerei. Anche oggi. Anche maggior ragione oggi. Assolutamente, quindi io credo che non scomparirà ovviamente Booking, hanno una potenza che è difficile che riescano a scomparire, però io credo saranno proprio loro a utilizzare questa tecnologia per evitare di esserne distrutti. Magari poi in futuro ne riparliamo, Volentieri. Non in un futuro remoto, ma in un futuro a breve ne riparliamo, perché questo è un trend molto interessante. Biometria, che cosa c'entra la biometria col turismo? Beh, allora, la biometria entra anche qua, entra con tutto. Il turismo. Se tu ci pensi, il turismo è stato anche qua uno dei primi settori. Tu arrivavi all'aeroporto di New York, ancora tutt'oggi, e ti prendono impronte digitali, la foto della faccia, in modo da poter essere identificato nei sistemi border control degli Stati Uniti. Con quello che ha fatto Apple e con l'iPhone X, che ti permette di avere, diciamo, accessibile una serie di dati biometrici, questa è la dimostrazione che ormai è alla portata tecnologica di tanti di tanti player. Beh, nel settore del turismo la biometria è il primo elemento che potrebbe essere usato per incrementare la sicurezza. Okay. E soprattutto anche qua per semplificare alcune procedure. Già oggi tu puoi loggarti, puoi entrare in una serie di servizi online con l'impronta digitale, con cellulari. Certo. Facile, invece di ricordarti la password. Sì. Pensa di fare la stessa cosa con la faccia quando arrivi senza fare il controllo passaporti. Sì, oppure in albergo. Oppure in hotel. Sì, ammesso che si possa fare per le leggi... In Italia è un po' complicato. Sì, sì. Però è una prospettiva. In tutto il resto del mondo ormai è abbastanza semplice fare il check-in online, arrivare, andare direttamente in camera e magari aprire la camera con il cellulare. Siamo in Europa, è più complicato, dai, perché ci sono paesi europei che non scherzano. Assolutamente. Germania e Svizzera hanno delle leggi sulla privacy molto, molto stringenti. Sì, qua è più che con la privacy, è proprio la necessità di identificazione dell'utente come se tu fossi un pubblico ufficiale. Cioè, io devo prenderti il tuo documento e dire che tu sei Enrico Pagliarini. Sì, sì, sì. Una cosa che non abbiamo ancora citato, ma che è stata citata spesso in combinazione con il mondo del turismo, la realtà virtuale o la realtà aumentata, cioè ti faccio vedere cose, che ne so, ti faccio vedere com'è l'albergo con i visori di realtà virtuale. Questa cosa mi fa un po' sorridere perché non è una tecnologia nuova. No, diciamo che deve ancora esplodere, ecco, questa sta un po' esplodendo. La realtà virtuale se ne parla da 20 anni. Sì. non è assolutamente una novità. O comunque da pochi anni dopo che Oculus ha lanciato i propri... La cosa interessante è la democratizzazione anche qua, cioè il fatto che con un costo accessibile ci siano dispositivi che tutti possono utilizzare, o addirittura a costo zero. Ricordo l'esperimento di Cardboard di Google, che è un cartone piegato che tu incastri il cellulare e hai un'esperienza simile alla realtà virtuale. E tutti i grandi anche qua stanno iniziando a provarla a vario titolo. Emirates sta facendo delle sperimentazioni per far testare la qualità delle cabine dell'aereo, della seduta, quindi tu ti metti su un vero sedile, caschetto, e ti rendi conto come potrebbe essere la tua esperienza di volo, che con Emirates di solito è anche molto buona. Best Western fa la stessa cosa con le camere e così via. La cosa più interessante che ho visto ad una fiera negli Stati Uniti, l'ente del turismo di Las Vegas aveva fatto la brochure come un cardbox, quindi un pezzo di cartone piegato che tu smontavi e rimontavi, ci mettevi il cellulare con la loro app e camminavi per le vie di Las Vegas. Quindi invece di darti una brochure cartacea, ti davano una cosa che ha un costo industriale di qualche dollaro, però l'esperienza è assolutamente immersiva. Molto più coinvolgente, certo. Però anche qua la chiave non è... la tecnologia ormai c'è, sì? La chiave è il contenuto. Ah, certo. Sì, sì, su questo c'è ancora molta strada da fare, naturalmente. Realtà aumentata? La realtà aumentata è... sai, la differenza sottile è che la realtà virtuale è immersiva, la realtà aumentata è una specie di livello, di layer che io ho sulla mia realtà per aggiungere delle informazioni. Io, la realtà aumentata sicuramente è una delle cose che esploderà in tanti modi. C'è da capire se attraverso un visore di un cellulare, io inquadro qualcosa e ci vedo sopra, facile, ci sono decine di app che uno può provare, o attraverso altri dispositivi più semplici. Si parla di lenti a contatto, realtà aumentata. Facebook già un anno fa aveva fatto un accordo con Luxottica, tanto per rimanere in Italia, per poter inserire un layer di realtà aumentata nei Ray-Ban, cioè negli occhiali, sì, completamente trasparente. Mm-hmm. E questo è interessante, tu immaginati di camminare per strada e ricevere le informazioni su quale metro prendere, dove, o come se fosse un sistema GPS per auto, solo assolutamente personale. Sì, sì. Oppure ti suggerisce, ti ricordo che questo bar ti era piaciuto, questo ristorante, cioè è interessante. Sì, sì. Senti, in generale, anche per concludere, ci sono delle altre app o servizi che ci vuoi, perché ti abbiamo spremuto molto, altre app, servizi che ti piacciono nel mondo del turismo e che ci consigli di utilizzare? Allora, vi do due consigli. Vai. Due consigli proprio per i viaggiatori. Stanno arrivando, ci sono già destinazioni anche italiane ed europee, le ho viste negli Stati Uniti, quindi magari da testare se funziona in tutto il mondo. Una delle più interessanti si chiama Rumor Travel. Rumor Travel, carina perché permette di rimettere in vendita o di riacquistare camere di hotel che sarebbero non cancellabili e tu non puoi più andare. Quindi tu hai prenotato un soggiorno, non puoi più andare, lo metti su questo marketplace, su questo portale, qualcun altro lo compra da te. Così tu non perdi, certo, ovviamente ad un prezzo scontato. Sì, sì, chiaro. E però tu puoi trovare anche là delle offerte, nel caso ti interessi, di altri che non possono andare. Ce ne sono tantissime. Molto interessante, anche qua l'esempio semplice di domanda-offerta, tecnologia, semplifica un processo, sì, che sì, sì, sì. E come riduce lo spreco. Sì, sì, è un po' come il trova treno in Italia, che esatto, se tu non puoi andare, hai un biglietto che non puoi rimborsare, ti vendo il biglietto del treno. Sì, sì. Questa per gli hotel, mentre l'altra, sempre parlando di risparmio, Splitty Travel con la Y nel mezzo, permette di, tu vuoi andare da Milano a, non lo so, Singapore, e ti, se tu prenoti, spesso sono due o più tratte, per risparmiare uno fa più tratte, e se tu le prenoti con un unico biglietto ha un costo, mettiamo $1,000, non lo so, $900, tramite il loro sistema loro spezzettano nelle singole tratte, ottimizzando il costo, risparmiando a volte fino al 60%, 70%. Pazzesco. Perché i singoli biglietti costano meno, costano molto meno. Interessante. Mirko, grazie per essere stato con noi, per averci fatto questa finestra ampia sul mondo del turismo. Quindi prossimamente nella prima parte dell'anno lancerete questo nuovo servizio con Travel Appeal. Come si chiama? Ha un nome questo nuovo servizio? Per adesso internamente diciamo lo chiamiamo Coach. Poi Coach. Vedremo. Ok, come ci hai raccontato prima. A presto, buon lavoro e buon grazie viaggio. Grazie mille, grazie. E così concludiamo questa puntata di 2024, come sempre grazie per la vostra attenzione. Vi faccio un doppio augurio, visto che siamo in un weekend con un po' di festa, con una specie di ponte, una vacanza un po' più lunga, si potrebbe dire. Ci sentiamo la prossima settimana, non dimenticate il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi anche attraverso Facebook e Twitter. Appuntamento alla prossima puntata.